is for all a dreamer and all the lovers in the world. You can dream forever, don't stop. No, no, no, non fermare l'onda, no, no, no, non fermare ogni sogno, ogni sogna, sopra ogni destino c'è scritto non toccare, ma è il mondo che affonda, è il mare che sogna, ogni carogna vuole stonare, immonda la vita senza il tuo altare. Sì, sì, sì, sì, continua ad amare attraverso un ritmo universale. Sì, sì, sì, continua ad amare attraverso un ritmo universale. Continua ad amare ogni tuo passo, non muovere il passo del figlio del mare, del figlio del male. Non muovere il passo del figlio del mare, del figlio del male. Cattiverie e cattivi noi ad un nuovo amare. Noi saremo come chimere d'amore in un tempo ancestrale. Dentro la mia stanza continui a mancare. Vorrei per questo un mondo senza sale. Dolcezze degli sguardi muti tuoi toccare. Vorrei per questo mondo senza sale. Orchestre di dolcezze degli sguardi muti tuoi toccare. Vorrei per questo mondo senza sale. Orchestre di dolcezze degli sguardi muti tuoi toccare. Degli sguardi muti tuoi toccare. Vorrei riavere il mio corpo, prego. Vorrei riavere il mio corpo, prego. Giovane ed amato come un tempo, ma troppo tempo penna intorto. Il mondo è una tortura che porta dentro il rammarico di ogni torto. Torturato lui, torturato noi, io porto con me solo immagini da rievocare di un tempo troppo sveglio, bimba isterica. Ora vorrei dormire, calore ad ogni mio freddo stare, con te viaggiare, partire e per nuove mete, com'è bello il mare. Ora vorrei dormire, calore ad ogni mio freddo stare, con te viaggiare, partire per nuove mete, com'è bello il mare, com'è bello il mare. Vorrei tra le acque ogni domenica giorno da lodare. Fuori già qualcuno si muove, ma com'è bello il mare. Dove il lavoro morde, vorrei vacanza per sempre. Con te fuori sorde ore di castigo, ma quale castigo avrei mai potuto meritare? Pure un tempo ligio, alla tomba da ripulire. E ora sorrido, sorrido con te mio amore. Sorrido con te mio amore. Vorrei tra le acque ogni domenica giorno da lodare. Fuori già qualcuno si muove dove il lavoro morde. Vorrei vacanza per sempre con te. Fuori sorride ore di castigo, ma quale castigo avrei mai saputo meritare? Pure un tempo ligio alla tomba da ripulire. E ora sorrido, sorrido con te. No, no, non fermare l'onda, no, no, no, no, non fermare ogni sogna, ogni sogno, sopra ogni destino c'è scritto non toccare. No, no, non fermare l'onda, no, no, non fermare ogni sogno, ogni sogna, no, non fermare l'onda.